Nel giro di 6 mesi, Tao Qian si era procurato una clientela fedele e iniziava ad arricchirsi. Si trasferì in una camera con finestra e la mobiliò con un letto grande che gli sarebbe servito una volta sposato, una poltrona e uno scrittoio inglese. Comperò anche qualche indumento perché da anni desiderava vestirsi bene. Aveva immediatamente capito chi detenesse il potere e si era quindi prefissato l'obiettivo di imparare l'inglese. Era una manciata di britannici a controllare Hong Kong, a fare le leggi e ad applicarle, a dirigere commercio e politica. I Fan Gui vivevano in quartieri esclusivi e avevano contatti solamente con i cinesi ricchi con cui facevano affari sempre in inglese. L'immensa moltitudine cinese condivideva con loro lo stesso spazio e lo stesso tempo, ma era come se non esistesse. Da Hong Kong partivano i prodotti più raffinati che approdavano direttamente nei salotti di un'Europa affascinata da quella millenaria e remota cultura. Le cineserie erano di moda, la seta faceva furore nell'abbigliamento, non potevano mancare graziosi ponti con lampioncini e salici piangenti che imitavano i meravigliosi giardini segreti di Pechino, i tetti a pagoda venivano riprodotti nei gazebo e i motivi con draghi e fiori di ciliegio si ripetevano fino alla nausea nelle decorazioni. Non c'era abitazione inglese priva di una sala orientale con un paravento. Coromandel, una collezione di porcellane e avori, ventagli ricamati da mani infantili con il punto proibito e canarini imperiali in gabbie intagliate. Le imbarcazioni che trasferivano questi tesori in Europa non tornavano vuote. Dall'India trasportavano oppio da contrabbandare e chincaglierie che rovinarono le piccole industrie locali. I cinesi dovevano fronteggiare la concorrenza di inglesi, olandesi, francesi e nordamericani per commerciare nel proprio paese. Ma la grande iattura fu l'oppio. In Cina era usato da secoli per piacere o a fini medicinali, ma quando gli inglesi inondarono il mercato si trasformò in una disgrazia irrimediabile. Colpì tutti i settori della società, indebolendola e sbriciolandola come pane raffermo. In un primo momento i cinesi guardarono gli stranieri con disprezzo, ripugnanza e l'olimpica superiorità di coloro che si sentono gli unici uomini dell'universo davvero civilizzati, ma nel giro di pochi anni impararono a rispettarli e a temerli. Dal canto loro, gli europei si rivelavano imbevuti dello stesso concetto di superiorità razziale, convinti di essere gli araldi della civiltà in una terra di gente sporca. Brutta, debole, chiassosa, corrotta e selvaggia, che mangiava gatti e bisce e ammazzava le proprie neonate. Erano in pochi a sapere che i cinesi avevano utilizzato la scrittura 1.000 anni prima di loro. Mentre i commercianti imponevano la cultura della droga e della violenza, i missionari si dedicavano all'evangelizzazione. Il cristianesimo doveva propagarsi a qualsiasi costo, era l'unica autentica fede e il fatto che Confucio fosse vissuto 500 anni prima di Cristo non significava nulla. Pur considerando i cinesi a malapena esseri umani, cercavano di salvare le loro anime e pagavano in riso le loro conversioni. I nuovi cristiani consumavano la loro razione di corruzione divina e si dirigevano in un'altra chiesa per convertirsi di nuovo, molto divertiti dalla mania dei Fan Gui di predicare le loro credenze come fossero le uniche. Per loro, gente pratica e tollerante, la spiritualità era più vicina alla filosofia che alla religione. Era una questione di etica e non certo di dogmi. Tao Qian prese lezioni da un compatriota che parlava un inglese vischioso e sprovvisto di consonanti, ma che lo scriveva con la massima correttezza. L'alfabeto europeo, paragonato ai caratteri cinesi, risultava di una meravigliosa facilità e in 5 settimane Tao Qian poteva leggere i giornali britannici senza impantanarsi nelle lettere, anche se ogni 5 parole aveva bisogno di far ricorso al vocabolario. Di notte passava ore intere a studiare. Sentiva la mancanza del venerabile maestro che lo aveva segnato per sempre con la sete del sapere, tenace come quella d'alcol per l'ebbro e quella di potere per l'ambizioso. Non poteva più contare sulla biblioteca dell'anziano né sulla sua fonte inesauribile di esperienza. Non poteva rivolgersi a lui per chiedere un consiglio o per consultarsi sui sintomi di un paziente, era privo di guida, si sentiva orfano. Dalla morte del precettore non aveva più scritto né letto poesie, non trovava tempo per ammirare la natura, per meditare né per osservare i riti e le cerimonie quotidiane che prima arricchivano la sua esistenza. Si sentiva pieno di rumore dentro di sé, agognava il vuoto del silenzio e della solitudine che il maestro gli aveva insegnato a coltivare, quale bene più prezioso. L'esercizio della sua professione gli insegnava sempre qualcosa sulla complessa natura degli esseri umani, sulle differenze emotive tra uomini e donne, sulle malattie curabili semplicemente con i rimedi e su quelle che necessitavano anche della magia, della parola giusta, ma gli mancava qualcuno con cui condividere queste esperienze. Il sogno di comprare una sposa e di avere una famiglia era sempre nella sua mente, ma pallido e sfumato come un bel paesaggio dipinto sulla seta. Invece il desiderio di acquistare libri, di studiare, di trovare altri maestri disposti ad accompagnarlo nel cammino della conoscenza si trasformava ogni giorno di più in ossessione. Così stavano le cose quando Tao Qian conobbe il dottor Hobbs, un aristocratico inglese che non aveva nulla dell'arrogante e che, diversamente dagli altri europei, era interessato al colore locale della città. L'aveva visto per la prima volta al mercato mentre frugava tra erbe e tisane in un negozio di guaritori. Conosceva solo 10 parole in mandarino, ma le ripeteva con una voce talmente stentorea e con una convinzione così salda che intorno a lui si era radunato un modesto pubblico, tra il divertito e lo spaventato. Da lontano era facile vederlo perché la sua testa spiccava al di sopra dei cinesi. Tao Qian non aveva mai visto uno straniero da quelle parti, così lontano dalle zone in cui normalmente transitavano, e decise perciò di avvicinarsi per vederlo da vicino. Era un uomo ancora giovane, alto e magro, con tratti nobili e grandi occhi azzurri. Tao Qian si accorse con soddisfazione che poteva tradurre le 10 parole di quel Fang Wei, perché ne conosceva altrettante in inglese e che quindi forse sarebbe stato possibile comunicare. Lo salutò con un cordiale inchino e questi rispose, imitando goffamente le riverenze. Si sorrisero e poi scoppiarono a ridere, accompagnati dal coro delle affabili risate degli spettatori. Cominciarono un affannoso dialogo di 20 parole mal pronunciate da parte a parte e una comica pantomima da saltimbanchi per la crescente ilarità dei curiosi. Ben presto un considerevole gruppo di persone, tutte piegate in due dal ridere, impedì il passaggio del traffico, attirando l'attenzione di un poliziotto britannico a cavallo che intimò al capannello di sciogliersi immediatamente. Tra i due uomini nacque così una solida alleanza. Ebenezer Hobbs era cosciente dei limiti della propria professione quanto Tao Qian lo era dei suoi. Il primo desiderava apprendere i segreti della medicina orientale intravisti nei suoi viaggi in Asia, in particolare il controllo del dolore attraverso l'inserimento degli aghi nelle terminazioni nervose e l'uso di combinazioni di piante ed erbe nella cura di alcune malattie che in Europa venivano considerate fatali. Il secondo subiva il fascino della medicina occidentale e dei suoi aggressivi metodi di cura. La sua invece era un'arte sottile, di equilibrio e armonia, un lavoro lento per incanalare l'energia deviata, prevenire le malattie e cercare le cause dei sintomi. Tao Qian non aveva mai praticato la chirurgia e le sue nozioni di anatomia, molto precise per quanto riguardava i diversi polsi e i punti dell'agopuntura, si riducevano a quello che poteva vedere e palpare. Conosceva a memoria i disegni anatomici della biblioteca del suo antico maestro, ma non gli era mai venuto in mente di aprire un cadavere. Questa pratica era sconosciuta nella medicina cinese. Il suo saggio maestro, che aveva esercitato l'arte della guarigione per tutta la vita, raramente aveva visto organi interni ed era incapace di fare una diagnosi se si imbatteva in sintomi che non rientrassero nel repertorio delle malattie note. Ebenezer Hobbs, invece, apriva i cadaveri e cercava le cause e così progrediva. Tao Qian lo fece per la prima volta nella cantina dell'ospedale inglese durante una notte di burrasca, in qualità di assistente del dottor Hobbs, che quella stessa mattina aveva collocato i suoi primi aghi per alleviare un'emicrania nell'ambulatorio in cui Tao Qian riceveva i clienti. A Hong Kong si trovavano diversi missionari interessati a curare il corpo quanto a convertire l'anima dei loro fedeli, che mantenevano eccellenti rapporti con il dottor Hobbs. Erano molto più vicini alla popolazione locale rispetto ai medici britannici della colonia e ammiravano i metodi della medicina orientale e si aprirono le porte dei loro piccoli ospedali allo Chung Yi. L'entusiasmo di Tao Qian e di Ebenezer Hobbs per lo studio e la sperimentazione alimentò immediatamente un sentimento di reciproco affetto. Si vedevano di nascosto perché se la loro amicizia fosse diventata di dominio pubblico, la loro reputazione avrebbe corso dei rischi. Né i pazienti europei né quelli cinesi avrebbero accettato che un'altra razza avesse qualcosa da insegnare. La voglia di comprare una sposa tornò a occupare i sogni di Tao Qian non appena le sue finanze si furono un po' assestate. Quando compì 22 anni, contò per l'ennesima volta i risparmi, come spesso faceva, e vide con soddisfazione che erano sufficienti per una donna dai piedi piccoli e dal carattere dolce. Siccome non aveva genitori cui affidare l'incarico, come era costume, dovette rivolgersi a un intermediario. Gli mostrarono i ritratti di diverse candidate, ma gli sembrarono tutte uguali. Gli risultava impossibile immaginare l'aspetto di una ragazza, e men che meno la sua personalità, a partire da quei modesti disegni a china. Non gli era consentito vederle con i suoi occhi o ascoltarne la voce come avrebbe desiderato. Non aveva nemmeno una parente che lo potesse fare al posto suo. Una cosa però sì poteva farla, vedere i loro piedi spuntare da sotto una tenda. Ma gli avevano raccontato che nemmeno così poteva stare tranquillo perché gli intermediari erano soliti imbrogliare mostrando i lotti d'oro di altre donne. Doveva affidarsi al destino. Fu sul punto di lasciare la decisione ai dadi, ma il tatuaggio sulla mano destra gli ricordò le sue passate disavventure nei giochi d'azzardo e preferì affidare il compito allo spirito di sua madre e a quello del maestro agopuntore. Dopo aver girato 5 templi lasciando offerte, tirò la sorte con i bastoncini degli I Ching, vi lesse che il momento era propizio e così scelse la sposa. Il metodo funzionò. Quando sollevò il fazzoletto di seta rossa dal viso della sua novella sposa, dopo lo svolgimento dei semplici rituali, dato che non aveva mezzi per nozze più sfavillanti, trovò un viso armonioso che guardava ostinatamente a terra. Dovette ripetere 3 volte il suo nome prima che lei osasse guardarlo con gli occhi pieni di lacrime, tremando di paura. «Sarò buono», le promise non meno emozionato. Dal momento in cui sollevò quella stoffa rossa, Tao adorò la ragazza che gli era toccata in sorte. L'amore lo prese di sorpresa, non immaginava che simili sentimenti potessero legare un uomo e una donna. Non aveva mai sentito dire che si manifestasse un tipo simile di amore. Ne aveva solo letto qualche vago riferimento nella letteratura classica, dove le fanciulle, come i paesaggi e la luna, erano temi obbligati di ispirazione poetica. Credeva infatti che nel mondo reale le donne fossero solo creature destinate al lavoro o alla riproduzione, come le contadine tra le quali era cresciuto, oppure lussuosi oggetti decorativi. Lin non rientrava in nessuna di queste categorie. Era una persona misteriosa e complessa, capace di disarmarlo con l'ironia e di sfidarlo con le domande. Lo faceva ridere come nessun altro, inventava storie incredibili, lo provocava con giochi di parole. In presenza di Lin tutto sembrava illuminarsi di uno sfolgorio irresistibile. La prodigiosa scoperta dell'intimità con un altro essere umano fu l'esperienza più profonda della sua vita. Con le prostitute si era limitato a incontri frettolosi e non aveva mai avuto a disposizione il tempo necessario né l'amore per conoscere a fondo nessuna di loro. Aprire gli occhi la mattina e vedere Lina addormentata al suo fianco lo faceva ridere dalla gioia e un momento dopo tremare dalla paura. E se una mattina non si fosse svegliata? Il dolce odore della sua traspirazione durante le notti d'amore, la linea sottile delle sue sopracciglia sollevate in segno di perenne sorpresa, l'incredibile snellezza della sua vita. Lei tutta lo sfiniva di tenerezza. Ah, le loro risate. Questa era la cosa più bella, la spigliata allegria di quell'amore. I libri del guanciale del suo vecchio maestro, che tanta inutile esaltazione gli avevano provocato durante l'adolescenza, si rivelarono di grande utilità nei momenti del piacere. Come si confaceva a una giovane vergine ben educata, Lin era modesta nel comportamento, ma non appena ebbe perso il timore del marito, emerse la sua natura spontanea e appassionata. In breve tempo l'avida alunna imparò i 222 modi di amare e, sempre disposta a seguirlo in quella corsa spericolata, suggerì al marito di inventarne di nuovi. Per fortuna di Tao Qian le raffinate conoscenze acquisite in modo teorico, grazie alla biblioteca del precettore, includevano innumerevoli maniere di dar piacere a una donna e confermavano che il vigore conta molto meno della pazienza. Le sue dita erano allenate a cogliere le diverse vibrazioni del corpo e a localizzare a occhi chiusi i punti più sensibili. Le sue mani calde e ferme, esperte nell'alleviare il dolore dei pazienti, si trasformavano in strumenti di infinito godimento per Lin. E poi aveva scoperto una cosa che il suo venerando Zhong Yi si era dimenticato di insegnargli, che l'amore è il miglior afrodisiaco. A letto raggiungevano una felicità tale che di notte gli inconvenienti della vita si cancellavano. Ma questi inconvenienti erano parecchi, come risultò evidente, nel giro di poco tempo. Gli spiriti che Tao Qian aveva invocato affinché lo soccorressero nella sua decisione matrimoniale avevano compiuto il loro dovere alla perfezione. Lin aveva i piedi bendati ed era timida e dolce come uno scoiattolo. Ma a Tao Qian non era venuto in mente di chiedere anche che la sposa fosse forte e in salute. La stessa donna, che di notte sembrava inesauribile, di giorno si trasformava in un'invalida. Riusciva appena a percorrere un paio di isolati con i suoi piccoli passi da mutilata. Certo, Lin si muoveva con la grazia lieve di un giunco esposto alla brezza, come aveva scritto l'anziano maestro agopuntore in qualcuna delle sue poesie, ma era altrettanto vero che un breve viaggio al mercato per comprare un cavolo costituiva un supplizio per i suoi lotti d'oro. Non si lamentava mai ad alta voce, ma bastava vederla sudare e mordersi le labbra per capire quanto sforzo le costasse ogni movimento. Non godeva neanche di buoni polmoni, respirava con un fischio acuto da cardellino, trascorreva la stagione delle piogge spettorando e quella secca faticando a respirare perché l'aria calda le rimaneva intasata tra i denti. Né le erbe del marito, né i tonici dell'amico, il dottore inglese, riuscivano a lenire i disturbi. Quando rimase incinta, i malanni si aggravarono, giacché il fragile scheletro riusciva appena a sopportare il peso del bambino. Al quarto mese smise completamente di uscire e si sedette esausta di fronte alla finestra a guardare la vita passare in strada. Tao Qian assunse due inservienti che si facessero carico delle incombenze domestiche e le tenessero compagnia perché temeva che in sua assenza Lin morisse. Raddoppiò le ore di lavoro e per la prima volta iniziò ad assillare i pazienti perché lo pagassero, gesto che lo riempiva di vergogna. Sentiva su di sé lo sguardo critico del maestro che gli ricordava il dovere di servire senza attendersi ricompensa, dal momento che chi più sa, più è in obbligo verso l'umanità. Eppure non poteva lavorare gratuitamente o in cambio di favori, come aveva fatto fino ad allora, perché aveva bisogno di ogni singolo centesimo per mantenere Lin negli agi. In quel periodo si era installato al secondo piano di una vecchia casa dove aveva trasferito la moglie con raffinatezze che nessuno dei due aveva mai sperimentato prima, ma non era soddisfatto. Si mise in testa che doveva trovare una casa con giardino, così lei avrebbe goduto di bellezza e aria pura. L'amico Ebenezer Hobbs, dato che lui si rifiutava di prendere in considerazione l'evidenza, gli spiegò che la tubercolosi era già in una fase talmente avanzata che non ci sarebbe stato giardino in grado di guarire Lin. Invece di lavorare dall'alba a notte fonda per comprarle vestiti di seta e mobili di lusso, rimanga con lei il più possibile, dottor Qian. Goda della sua presenza finché c'è, gli consigliava Hobbs. Entrambi i medici convennero, ognuno dalla prospettiva della propria esperienza, che il parto sarebbe stato per Lin la prova del fuoco. Nessuno dei due era preparato in materia, perché sia in Europa sia in Cina era sempre stato terreno delle levatrici, ma si proposero di studiare. Non si fidavano della perizia di uno sgarbato donnone, perché così giudicavano le addette a tale professione. Le avevano viste lavorare con le loro mani ripugnanti, le loro stregonerie, i metodi brutali per strappare il bambino alla madre e decisero di evitare all'in tale funesta esperienza. La ragazza, tuttavia, non voleva partorire davanti a due uomini, soprattutto visto che uno dei due era un Fang Wei dagli occhi smorti, che non parlava nemmeno la lingua degli esseri umani. Pregò il marito di rivolgersi alla levatrice del quartiere perché la più elementare decenza le impediva di mostrarsi in quella posizione a un demonio straniero. Ma Tao Qian, sempre disposto ad assecondarla, questa volta si mostrò inflessibile. Infine scesero a patti. Lui l'avrebbe seguita personalmente, mentre Ebenezer Hobbs sarebbe rimasto nella stanza attigua per fornirgli appoggio verbale in caso di bisogno. La prima avvisaglia del parto fu un attacco d'asma che per poco non costò la vita a Lynn. Allora gli sforzi per respirare si sommarono a quelli del ventre per espellere la creatura, ma tanto Tao Qian, con tutto il suo amore e la sua scienza, quanto Ebenezer Hobbs con i suoi testi di medicina, risultarono impotenti. 10 ore dopo, quando i gemiti della madre si erano ridotti ai rantolanti gorgogli di un annegato e il neonato non dava segni di voler nascere, Tao Qian uscì con le ali ai piedi in cerca della levatrice e, nonostante il ribrezzo che provava, controvoglia la trascinò a casa. Esattamente come Tao Qian e Hobbs temevano, la donna risultò essere una vecchia maleodorante con la quale fu impossibile scambiare la minima nozione medica, perché il suo campo non era la scienza, bensì la lunga esperienza e l'istinto. Iniziò con l'allontanare i due uomini con uno spintone, proibendo loro di affacciarsi alla tenda che separava le due camere. Tao Qian non venne mai a sapere cosa accadde dietro quella tenda, ma si tranquillizzò quando sentì Lin respirare senza soffocarsi e gridare con forza. Durante le ore successive, mentre Ebenezer Hobbs dormiva estenuato su una poltrona e Tao Qian consultava disperatamente lo spirito del maestro, Lin diede alla luce una bambina esangue. Trattandosi di una creatura di sesso femminile, né la levatrice né il padre si preoccuparono di far sì che si riprendesse. Si diedero invece da fare per salvare la madre, che andava perdendo le già scarse forze a mano che il sangue le scorreva tra le gambe. Lynn non si disperò eccessivamente per la morte della bambina, quasi presentisse che la vita le sarebbe mancata prima di poterla allevare. Si rimise lentamente dal brutto parto e per un certo periodo di tempo cercò di essere nuovamente l'allegra compagna dei giochi notturni, con la stessa disciplina che impiegava per dissimulare il dolore ai piedi, fingeva di entusiasmarsi per gli appassionati abbracci del marito. «Il sesso è un viaggio sacro», gli diceva spesso, ma ormai le mancava l'energia per accompagnarlo. Tao Qian desiderava tanto quell'amore che fece di tutto per ignorare i sintomi che tradivano il cambiamento e continuò a credere fino alla fine che Lin fosse la stessa di prima. Per anni aveva sognato di avere figli maschi, ma ora cercava solo di proteggere la sua sposa da un'altra gravidanza. I suoi sentimenti per Lin si erano trasformati in una sorta di venerazione che solo a lei poteva confessare. Nessuno avrebbe potuto capire quello spossante amore per una donna. Nessuno conosceva Lin come lui, nessuno sapeva quanta luce avesse portato nella sua esistenza. Sono felice, si ripeteva per allontanare le premonizioni funeste che lo assillavano non appena si distraeva, ma non lo era. Ormai non rideva più con la leggerezza di prima e quando era con lei a malapena riusciva a consumare il suo amore, salvo in alcuni momenti perfetti del piacere carnale, perché viveva osservandola con preoccupazione, sempre in pena per la sua salute, consapevole della sua fragilità, misurando il ritmo del suo respiro. Giunse a odiare i loti d'oro che all'inizio del matrimonio baciava, trasportato dall'esaltazione del desiderio. Ebenezer Hobbs sosteneva che Lynn dovesse fare lunghe passeggiate all'aria aperta per rinforzare i polmoni e stuzzicare l'appetito, ma lei riusciva malapena a fare 10 passi prima di sentirsi mancare. Tao non poteva rimanere con sua moglie tutto il tempo, come suggeriva Hobbs, perché doveva provvedere a entrambi e ogni istante lontano da lei gli sembrava vita sprecata nell'infelicità, tempo sottratto all'amore. Mise a servizio dell'amata tutta la sua farmacopea e tutto il sapere acquisito nei molti anni di pratica medica. Ma un anno dopo il parto, Lin si era trasformata nell'ombra della ragazza allegra che era stata. Suo marito cercava di farla ridere, ma la risata usciva falsa a entrambi. Un giorno Lin non riuscì più ad alzarsi dal letto. Si sentiva soffocare. Le forze si esaurivano nel tossire sangue e nel cercare di respirare. Si rifiutava di mangiare qualsiasi cibo tranne qualche cucchiaiata di zuppa magra perché lo sforzo la estenuava, dormiva sussultando nei rari momenti in cui la tosse si calmava. Tao Qian calcolò che ormai da 6 mesi respirava con un russare liquido come fosse immersa nell'acqua. Sollevandola in braccio constatava che aveva perso peso e il cuore gli si riempiva di terrore. La vide soffrire così tanto che la morte giunse come un sollievo. Ma la fatale mattina, in cui si svegliò abbracciato al corpo gelato di Lynn, credette anch'egli di morire. Un grido lungo e terribile, che emergeva dalle profondità della terra come un'eruzione vulcanica, scosse la casa e svegliò il quartiere. Giunsero i vicini, aprirono a pedate la porta e lo trovarono nudo in mezzo alla stanza che ululava con la moglie tra le braccia. Dovettero separarlo a forza dal cadavere e tenerlo fermo fino a quando non arrivò Ebenezer Hobbs, che lo obbligò a inghiottire una quantità di laudano sufficiente a far stramazzare un leone. Tao Chien sprofondò nella vedovanza con una disperazione totale. Fece un altare con il ritratto di Lin e alcuni dei suoi oggetti e passò ore a contemplarlo con desolazione. Smise di assistere i suoi pazienti e di condividere con Ebenezer Hobbs lo studio e la ricerca, i pilastri della loro amicizia. Lo disgustavano i consigli dell'inglese, convinto che chiodo scaccia chiodo e che la cura migliore per riprendersi dal dolore fosse frequentare i bordelli del porto, dove avrebbe potuto trovare tutte le donne che voleva con i piedi deformi, come lui chiamava i loti d'oro. Come poteva suggerirgli simili aberrazioni? Non esisteva chi potesse rimpiazzare Lynn, non avrebbe mai più amato nessun'altra, di questo era certo. Da Hobbs in quel periodo Tao Chien accettava solo le generose bottiglie di whisky. Passò diverse settimane nel letargo alcolico fino a quando il denaro finì e a poco dovette vendere o impegnare i suoi beni, finché un giorno non fu in grado di pagare l'affitto e dovette trasferirsi in una pensione assai modesta. Allora si ricordò di essere uno Chung Yi e riprese a lavorare, ma esercitando a fatica con gli abiti sporchi, la treccia sfatta e mal rasato. Siccome godeva di buona reputazione, i pazienti tollerarono il suo aspetto da spaventapasseri e gli errori dettati dall'ebbrezza, con l'atteggiamento rassegnato tipico dei poveri. Ma ben presto smisero di rivolgersi a lui. Nemmeno Ebenezer Hobbs tornò a chiamarlo per i casi difficili perché aveva perso fiducia nel suo giudizio. Fino a quel momento la loro complementarità era stata vincente. L'inglese poteva per la prima volta praticare la chirurgia con audacia, grazie alle potenti droghe e agli aghi d'oro capaci di mitigare il dolore, ridurre le emorragie, abbreviare i tempi di cicatrizzazione, mentre il cinese apprendeva l'uso del bisturi e di altri metodi della scienza europea. Ma le sue mani tremanti e gli occhi annebbiati dall'intossicazione e dalle lacrime rappresentavano un pericolo più che un aiuto. Nella primavera del 1847 il destino di Tao Chien all'improvviso cambiò nuovamente, come aveva già fatto un paio di volte nella sua vita. A mano che aveva perso i pazienti regolari e si era diffusa la voce del suo discredito come medico, si era dovuto spostare nei quartieri più disperati del porto, dove nessuno gli chiedeva referenze. I casi erano routinari: contusioni, pugnalate, perforazioni da proiettili. Una notte Tao Chien fu chiamato d'urgenza in una taverna per dare i punti a un marinaio reduce da una terribile rissa. Lo condussero nel retro del locale, dove l'uomo giaceva incosciente con la testa aperta come un melone. Il suo avversario, un norvegese gigantesco, aveva sollevato un pesante tavolo di legno e l'aveva usato come randello per difendersi dagli aggressori, un gruppo di cinesi decisi a suonargliele di santa ragione. Si erano lanciati in massa su di lui e l'avrebbero fatto a pezzi se non fossero accorsi in suo aiuto alcuni marinai nordici che stavano bevendo nello stesso locale. E così quella, che era iniziata come una discussione tra giocatori ubriachi, si era trasformata in una battaglia razziale. Quando giunse Tao Chien, quelli in grado di camminare si erano allontanati da un pezzo. Il norvegese era tornato illeso sulla sua nave, scortato da due poliziotti inglesi, e gli unici rimasti in giro erano l'oste, la vittima in agonia e il pilota che si era dato da fare per allontanare la polizia. Se fosse stato europeo, il ferito sicuramente sarebbe finito all'ospedale britannico, ma siccome era un asiatico, le autorità portuali non si scomodarono troppo. A Tao Chien bastò un'occhiata per capire che non c'era nulla da fare per quel povero diavolo con il cranio a pezzi e il cervello in bella vista. Lo spiegò al pilota, un inglese barbuto e volgare. «Cinese maledetto, non puoi lavar via il sangue e cucirgli la testa?» pretendeva. «Ha la testa divisa in due, cosa gliela cucio a fare? Hai il diritto di morire in pace!» «Non può morire! La mia barca salpa domani all'alba e ho bisogno di quest'uomo a bordo, è il cuoco!» Mi dispiace, replicò Tao Qian con un rispettoso cenno della testa, cercando di dissimulare il fastidio che gli procurava quell'insensato Fang Wei. Il pilota ordinò una bottiglia di gin e invitò Tao Qian a bere con lui. Tanto, se il cuoco si trovava al di là del bene e del male, già che c'erano, potevano bere qualcosa in suo onore, disse. In modo che poi il suo fottuto fantasma, maledizione a lui, non potesse farsi vivo a tirargli i piedi di notte. Si accomodarono a poca distanza dal moribondo a ubriacarsi senza fretta. Di tanto in tanto Tao Qian si chinava per prendergli il polso e calcolava che non doveva rimanergli più di qualche minuto di vita. Ma l'uomo si rivelava più resistente di quanto si aspettasse. Lo Zhong Yi non si rese conto che l'inglese continuava a versargli un bicchiere dopo l'altro mentre dal suo beveva appena. Ben presto si sentì barcollare e non riuscì a ricordare perché si trovasse in quel luogo. Quando un'ora più tardi, dopo un paio di convulsioni finali, il suo paziente spirò, Tao Qian non ebbe modo di accorgersene perché era già rotolato a terra, privo di sensi. Lo svegliò la luce di un mezzogiorno splendente, aprì gli occhi con terribile fatica e non appena riuscì a sollevarsi, si vide circondato da cielo e acqua. Ci mise non poco a rendersi conto di essere sdraiato su una grande matassa di cime sulla coperta di un'imbarcazione. Il battere delle onde contro i fianchi della nave risuonava in lui come campane a festa. Gli sembrava di sentire voci e grida, ma non era sicuro di niente, poteva benissimo trovarsi all'inferno. Riuscì a mettersi in ginocchio e a gattonare per un paio di metri, poi la nausea lo invase e cadde bocconi. Pochi minuti dopo sentì il getto freddo di un secchio d'acqua sulla testa e una voce che gli si rivolgeva in cantonese. Alzò gli occhi e si trovò davanti un volto imberbe e simpatico che lo salutava con un ampio sorriso al quale mancava la metà dei denti. Una seconda secchiata d'acqua di mare lo fece definitivamente riprendere dallo stupore. Il giovane cinese, che con tanta premura lo bagnava, si chinò di fianco a lui, sbellicandosi dalle risate e dandosi delle gran pacche sulle cosce, come se la sua patetica condizione avesse qualcosa di irresistibilmente comico.